Italia in controluce. 13:33 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. È il momento su Radio 24 delle storie di cronaca, anche quando non conquistano le prime pagine dei giornali. Così raccontiamo l'Italia in controluce. In tempi di crisi, la storia di un'azienda che vuole assumere nuovi dipendenti è già una notizia, ma se aggiungi che questo avviene in Sardegna, una regione dove ultimamente si parla solo di stabilimenti che chiudono i battenti, la cosa è ancor più interessante. Se non fosse che dove non arriva la crisi è la burocrazia a gettare sabbia negli ingranaggi, risultato: l'azienda non riesce a crescere come vorrebbe. La storia della PB Oil di Porto Torres ce la racconta Valchiria Baldinelli. La PB Oil di Porto Torres, senza usufruire di contributi pubblici, ha investito 1 milione di euro in 6 mesi per rilanciare l'attività di recupero degli oli esausti. È pronta a spenderne subito altri 4 per potenziare impianti ed organico. L'eccessiva burocratizzazione però sta bloccando il piano di sviluppo aziendale. Il braccio di ferro tra gli imprenditori e l'UTF, l'Ufficio delle Finanze dell'Agenzia delle Dogane, va avanti da più di un mese. 100 lavoratori potrebbero perdere il treno di uno sbocco occupazionale, un dato da non sottovalutare. A Porto Torres, 4.500 buste paga sono a rischio per la crisi del petrolchimico. Ma in questa storia la crisi non c'entra molto. Gli amministratori della PB Oil avrebbero le carte in regola. L'azienda, a causa dei tentennamenti dell'UTF, potrebbe anche essere costretta a chiudere. I dirigenti statali, dopo il sit-in di protesta davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate di Sassari, dopo un lungo periodo di silenzio, hanno aperto le porte degli uffici ai lavoratori e ai sindacalisti, al sindaco di Porto Torres e ai rappresentanti della provincia di Sassari. Ora possono finalmente dialogare. Un piccolo passo in avanti è stato compiuto, afferma Flavio Piras, direttore di produzione della PB Oil. Noi consegneremo nell'immediato dei documenti all'Agenzia delle Dogane. Ricordo che è una raffineria che fa tra l'altro anche del bene da un punto di vista ambientale, perché va a smaltire un rifiuto altamente pericoloso che è l'olio esausto, che ha un potere inquinante particolarmente elevato, e lo ritrasformiamo in misura completa in una base rigenerata, che poi viene venduta direttamente nel mercato. La PB Oil ha rilevato la fabbrica dalla Distoms. La magistratura aveva posto e poi rimosso i sigilli agli obsoleti serbatoi della discordia, una decina da 120 tonnellate l'uno, che gli amministratori vorrebbero rimettere a nuovo. Giovannino Secchi fu il primo dipendente ad essere assunto dalla Distoms. Licenziato dal mese di luglio dello scorso anno, ora in mobilità. Non vedo prospettive, io ho famiglia, 2 figli, il prodotto non manca, però è solo un problema, quando ci dicono, burocratico, ma io non voglio morire di burocrazia. Alessio Parodo invece è uno dei pochi fortunati che è rientrato al lavoro. La vecchia proprietà ci deve tantissimi soldi, sembrano soldi persi. Adesso c'è una nuova società, ha deciso di assumerci di nuovo tutti. Però è sorto questo grosso problema, c'è l'Agenzia delle Dogane che non ci fa lavorare. Sembra che in Sardegna non si possa lavorare, affermano amareggiati gli operai mentre sventolano le bandiere dei sindacati e distribuiscono volantini per spiegare i motivi della loro protesta, scusandosi con gli utenti e il personale dell'Agenzia delle Entrate per i disagi. Prima era Santo Stefano e ci avevano promesso il lavoro, adesso me l'ho riconquistato, diciamo, e non riusciamo ad andare a far avviare l'impianto, che è qualcosa di ecologico anche, cioè recuperare l'olio usato. La PB Oil a fine mese metterà il personale in ferie se l'UTF non autorizzerà l'utilizzo dei serbatoi sequestrati alla precedente proprietà. Insomma, chiuderà i battenti ancor prima di avviare gli impianti. Una situazione incredibile, dichiara il vicepresidente della provincia, Pinuccio Vacca. Questa azienda sta andando controcorrente, incalza il sindaco di Porto Torres, Luciano Mura. Io spero, insomma, che si recuperi la ragionevolezza degli atti burocratici che tutti gli enti devono compiere per dare possibilità a questa azienda di lavorare. Tra l'altro devo dire che svolge anche una funzione dal punto di vista della salvaguardia dell'ambiente importante, perché molto spesso gli oli esausti, quando non si riescono a conferire, prendono la via delle nostre fognature, per cui avere un servizio di questo genere significa anche migliorare l'ambiente, produrre anche meno inquinamento perché si recuperano gli oli già utilizzati. L'Agenzia delle Dogane chiede che venga eseguito un collaudo, ma se non consente di riavviare gli impianti, com'è possibile effettuarlo? farlo, si domanda Giovanni Tavera della Wilchem Will di Sassari. La magistratura ha tolto i sigilli e ancora non ci spieghiamo perché l'UTF blocca il riavviamento di questo impianto. Immaginate che solo dopo la crisi del petrolchimico abbiamo 4.500 buste paghe a rischio, 100 assunzioni o comunque 100 posti di lavoro conservati sarebbe comunque un grosso respiro per un territorio che fino a oggi ha visto solo cassa integrazione, licenziamenti e mobilità. Pensiamo che ci sono dei cavilli burocratici di persone che non riescono a mettersi d'accordo all'interno dello stesso ufficio. Se così non è, l'Agenzia delle Dogane ci deve spiegare qual è il motivo e dobbiamo cercare tutti insieme per questo territorio per portare a casa un buon risultato. Italia in controluce. Si parla molto in queste ore di fondazioni liriche. Venerdì scorso, come sapete, il presidente Napolitano ha firmato il decreto del ministro Bondi, dopo che si era preso un po' di tempo per rifletterci su. Ma non tutti i problemi sembrano risolti, almeno stando a quello che dicono gli artisti e le maestranze. Adriana Fracchi ha sentito Walter Vergnano, sovrintendente del Teatro Regio di Torino. Per vedere le cose in positivo, potrebbe essere il decreto uno strumento per agire più prontamente a problematiche che sono ormai da anni che aspettano di essere affrontate oltre che risolte. Così com'è, mi sembra di poter dire che ha questo significato e poi ha bisogno, a mio parere, di parecchie modifiche nel corso della trasformazione in legge. Sono 60 giorni di tempo per trasformarle. Se il governo vorrà ascoltare le parti sociali, ascoltare i sovrintendenti e fare tesoro dei suggerimenti, ovviamente costruttivi e non distruttivi, credo che poi venire fuori alla fine un lavoro utile per i teatri. Ma l'alzata di scudi generale contro, allora, che cosa si rivolge in particolare? L'alzata di scudi dei sindacati la capisco perfettamente. Un decreto che recita blocco totale del turnover fino al 2012, riduzione degli emolumenti dei dipendenti dopo un anno se non si fa il contratto, agire sull'occupazione bloccandola, sulla retribuzione diminuendola, mi sembra che la reazione del sindacato sia una reazione quanto mai comprensibile. Nello specifico il Teatro Regio quali problemi potrebbe trovarsi a dover affrontare? Se il decreto dovesse passare così come è oggi sulla parte blocco del turnover, per noi sarebbe un danno gravissimo. Il Teatro Regio ha un organico di dipendenti stabili oggi di gran lunga inferiore alla pianta organica che approvò il Ministero nel 98. Quindi già oggi abbiamo bisogno assoluto di assumere in tutti i comparti, orchestra, coro, tecnici amministrativi, persone che sono già strutturali al teatro. Quindi un blocco vorrebbe dire un grave danno per il teatro e una grave ingiustizia per questi lavoratori che da anni aspettano di essere assunti. Voglio aggiungere qualcosa, credo che la sostenibilità del costo del lavoro sia anche uno dei parametri che siano da considerare. Allora, dove c'è effettivamente un organico sottodimensionato, dove ci sono le condizioni economiche per poter fare assunzioni, deve essere consentito farlo, se no in quel caso il decreto avrebbe una ricaduta negativa per quei teatri che si trovassero in quelle condizioni. Italia in controluce. Era una moda che sta prendendo piede. Parliamo dei parrucchieri cinesi. Sì, i parrucchieri cinesi si trovano soprattutto nelle grandi città e le donne li stanno scoprendo sempre più. Ad attirare, manco a dirlo, sono i prezzi molto bassi. Ma come fanno? Ha provato a domandarselo Deborah Dirani. Qua siamo a Bologna. Farsi belle in tempo di crisi può non essere impresa facile. Senza andare a investire centinaia di euro in botox, filler o creme per il viso all'estratto di caviale, polverine d'oro e brillanti che costano più di un mese d'affitto in centro, a volte anche farsi i capelli, sistemare un taglio o proprio cambiare look può essere troppo costoso. Ma la vanità è femmina e il low price è cinese. Uniti i due ingredienti hanno dato come risultato un salone di bellezza gestito da cinesi, un po' cacciaroni e ostinatamente sorridenti, in cui shampoo, taglio e piega costano 8 euro. Ora, se si considera che la media per il solo shampoo e piega a Bologna è di 20 euro e se si considera anche che io sono femmina, vanitosa e curiosa, si arriva al risultato che devo provare. Ore 10, entro da Fashion Mania, il China Salone di Bellezza. Ho 5 signore che aspettano il loro turno. Approfitto per sentire come mai sono qui nella Chinatown della messa in piega. Ma intanto per questione economica e poi perché mi sono trovata bene. La terza volta che vengo e mi sono trovata veramente bene. E il servizio come sono questi ragazzi? Efficientissimo, sono bravi, veloci e hanno un metodo che veramente mi ha lasciato un po' senza parole. Anche perché vedo che con gli stessi soldi vado dal parrucchiere 3 volte piuttosto che andare una volta dalla mia.